sera, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Giovedì 19 luglio 2012. Buonasera da Agostino Spolaore. Buonasera anche da. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Non eri attento, sarai bocciato. Lo so, purtroppo. Buonasera da Blu Radio Veneto, questa è la vostra emittente, in questo momento preferita, come invece di essere sottoscritto. Anche questa sera un live stratosferico, posso dirlo. Stasera abbiamo una grandissima artista e recente vincitrice di un premio, si chiama Erika Boschiero, ma ne parliamo tra qualche istante. Prima consentitemi i soliti immancabili dati di questa emittente, cioè il numero telefonico per chiamare è lo 049 875 6423. Mentre per quanto riguarda i vostri sms, se ne volete mandare a Erika, se volete chiedere qualcosa, sei disponibile Erika a mandarla? Certo. Allora vi ricordo gli sms 346 23 20 033. Poi ancora le nostre frequenze, cioè 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza. E poi ancora il sito, cioè www.bluradioveneto.it. Lì ci potete ascoltare in streaming, è semplicissimo, basta andare nella home page in alto a sinistra cliccando ascolta la radio, si ascolta questa emittente 24 ore su 24. Le nostre pagine su Facebook, che sono semplicemente Blu Radio Veneto, l'altra è Blu Radio Veneto Rock Wave. Credo di aver detto tutto, sintetizzato abbastanza velocemente per dare lo spazio maggiore a questa grande artista, che sono veramente fiero, felice di averla qui questa sera. È una carissima amica prima di tutto, ma soprattutto è una, ripeto per l'ennesima volta, grande, grandissima artista. Ciao Erika, benvenuta. Ciao, grazie, salve a tutti. Benvenuta a Blu Radio Veneto. Grazie, sono molto felice di essere qui questa sera. Anche per noi, credici. Erika, permettimi subito una domanda che è inerente al titolo del tuo disco, anche se è datato di qualche anno, ma cosa c'è dietro ogni crepa di muro? Ci sono tante cose, tutte le cose che si possono raccontare e anche quelle che non si raccontano, per cui insomma il muro già di per sé è un simbolo molto forte, no? E quindi tutto quello che si racchiude dietro di esso è degno di essere insomma in qualche modo ricordato e raccontato anche attraverso la musica, è quello che un po' cerco di fare anch'io. E tu sei una grande, grandissima narratrice di musica. Ma non lo so, penso lo dici tu, però insomma diciamo che sento di insomma mi riesce quello che mi piace fare, per cui lo faccio. Beh, io senti, avendo per fortuna questa passione, insomma sono in contatto un po' con diverse persone, qualsiasi persona che io conosca nell'ambito della musica, chi c'hai stasera? Erika Boschiero, ah è bravissima, ti conoscono tutti, c'è un stuolo wow. di ammiratori. Questa sera c'è un sacco di gente che mi ha già scritto che ti saluta caramente, insomma. Beh, grazie, ricambio a quelli che mi hanno salutato, insomma alcuni nomi me li hai già fatti e sono molto insomma contenta che ci stiano seguendo, e sì, altri insomma abbiamo Silvio Celeghin, abbiamo Giulia Daici, abbiamo Luigi Mariano, poi insomma Rebi Rivale. Ci sono un po' di nomi molto cari e anche per questa emittente. Sì, hai cominciato nel 2002 a registrare un disco con Giusto Pio. Chi non lo sapesse, Giusto Pio era il primo arrangiatore di Battiato, quello che ha scritto e arrangiato i pezzi per Alice ed altra gente. Com'è questa collaborazione con Giusto Pio? 2002, quindi un po' di anni fa, quindi sì. eri giovanissimo, già sei giovane adesso, quindi eri molto giovane. 10 anni fa, sì, è stata importantissima perché io allora avevo 17 anni e per me è stato importante quello che lui mi ha detto e come si era portato a me, nel senso che mi ha sempre spronato ma senza darmi mai la pappa pronta, e credo che questo sia stato molto saggio, una cosa che ben pochi fanno, insomma, che esserci nell'ombra, riuscire a seguire una persona senza, cioè lasciandole il tempo di fare la sua crescita, insomma, quindi questa è la cosa più, forse più importante che mi ha insegnato lui. Quindi ti ha dato il là per cominciare la tua attività, la tua carriera. Insomma, mi ha sempre motivato molto, mi ha detto che valeva quello che facevo e che quindi dovevo andare avanti. Poi hai fatto, questo si chiamava Piccole Storie d'Africa, e a partire dal 2003 hai fatto tre dischi per bambini, editi dalla editrice missionaria italiana. Parole da fare, già significativo parole da fare. Quindi... Ma sì, era un progetto nato dall'idea di questo amico sacerdote che era missionario in Africa, poi adesso sta in Italia, lui è Saverio Fassina, e ha aveva lanciato questa idea di fare questi tre volumi che in qualche modo racchiudessero anche qui delle storie raccontate, quindi anche raccontate in musica, c'era il CD con le mie canzoni, ma non solo mie, c'erano poi anche altri artisti coinvolti, e storie che in qualche modo andavano a toccare certi valori e a far pensare anche rispetto a certe tematiche, così. Quindi è stata comunque un'esperienza anche quella importante. e poi sei andata a sbattere da Michel Pergolani e da Renato Marenco. Demo, due mostri sacri. Io che ho una certa età li conoscevo quando, beh, si parlava prima con Giovanni, quando Michel Pergolani faceva il fotografo di Ciao 2001, si parla molti anni fa. Ti interrompo un attimo, sì. Chiedo scusa. Erika, presenta anche i tuoi musicisti, certo, che sono qui stasera, ci siamo dimenticati di farlo, colpa mia. Sì, no, infatti. Allora c'è Giovanni Natoli alla batteria, lo sentirete. Buonasera a tutti. E c'è Enrico Pagnin al clarinetto. Ciao a tutti. E sono molto fiera di averli qui con me, ormai loro mi seguono da tanti anni fedelmente e sono veramente speciali. Quindi sei arrivata a Demo e Demo ha cominciato a muovere, sì. Erika, musicalmente parlando. Come è stata la prima, in qualche modo, la prima trasmissione di una mia canzone su una radio nazionale, quindi è stato insomma una grande emozione. Allora si parla di 2005-2006. Sì, 2005 credo. Esattamente. Sì. E quindi insomma poi da lì si è andato avanti. Ma si è andato avanti, ha fatto tante altre cose, certo. Tanti sviluppi, e hai fatto questo disco che è un disco di un certo periodo fa. Adesso ci sarà qualche altro progetto nuovo, c'è altro, però sì. Ci fermiamo, questo è il tuo vero primo disco da solista, questo sì. Bisogna dirlo. Esatto, sì, Dietro ogni crepa di muro si chiama, è uscito nel 2007 grazie alla collaborazione con Renato Nota, che era questo chitarrista, arrangiatore, e con l'aiuto appunto dei musicisti che mi seguono, e così è venuto fuori questo disco partorito con fatica, con gioia, come sempre avvengono i parti, no? E quindi insomma poi ha fatto la sua strada anche lui. Io se mi permetti Erika, volevo salutare tre dei tuoi musicisti che hanno suonato nel disco, e sono Valentino Favotto. Certo. E poi Francesco e Alessandro Piovan, che sono veramente dei carissimi, carissimi amici miei. Sono anche molto bravi. Ti salutano tanto. Questa sera li avevo invitati a venire a trovare qui, ma sono a Roma perché stanno. Questa sera hanno un concerto dal vivo con Antonino. Ah, vedi. E io posso fare una piccola pubblicità, ma visto, certo, che hai nominato Valentino Favotto. Con Valentino proprio, e anche con Leo Miglioranza, che qualcuno degli ascoltatori sicuramente ricorda, e Alberto Cantone, apriremo il concerto di Gino Paoli e Danilo Rea ai Suoni di Marca a Treviso il 6 agosto. Per cui se qualcuno di voi passa per Treviso il 6 agosto ci trova, e trova anche Valentino Favotto. Magari facciamo salto anche noi, Maurizio. Magari. Si potrebbe fare. Agosto, siamo in ferie. Beh, sì, no, siamo, non come, no, come radio. No, radio mai. Mai. Però adesso ci ascoltiamo qualcosa di questo disco, Erika. D'accordo. Hai scelto la canzone che secondo te dà un po' il titolo a questo disco, giusto? Sì, Costeggio il muro di mattoni rossi, che all'interno ha proprio questa strofa dove dico che c'è una storia da ricordare, sai, dietro ogni crepa di muro. E da lì appunto il disco Dietro ogni crepa di muro. L'ascoltiamo. Costeggio il muro di mattoni rossi, dall'altra parte la verità, appesa al filo dei miei paradossi, sull'orizzonte del che sarà, che c'è una storia da ricordare, sai, dietro ogni crepa di muro, nascosta lì dove il tempo non passa mai, per ogni evento futuro, come il ragazzo che un giorno si domandò perché dovesse restare, ed il suo pianto alle pietre lui affidò, poi si decise a partire. Che c'è chi disse che il povero sarà re, rovesceranno le carte, ma intanto chi è sempre solo qui come me, mette i suoi sogni da parte. Raccontami questa tua storia, poi mostrami la traiettoria, la rotta è mia, il tempo è ormai scaduto, andiamo via, e quel che è stato voglio distendermi sopra la terra da misero vagabondo, voglio vedere se riesco a sentire ancora battere il cuore del mondo. Ho visto terre dove si danza ancora sul filo dell'equatore, dove è permesso ancora sdraiarsi e fare l'amore. Raccontami un'altra poi li abbandonano per un po'. Lasciano il gioco dei miei paradossi, che in fondo son tutto ciò che ho. Sogno di terre dove si danza ancora sul filo dell'equatore. Ora parto io verso l'altrove e ne gusto l'odore. Raccontami un'altra storia, poi mostrami la traiettoria. La rotta è mia, il tempo è ormai scaduto, andiamo via. E quel che è stato è stato. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Siamo qui, siamo in diretta con Erika Boschiero, con Enrico Pagnin e Giovanni Natoli per questo Dietro ogni crepa di muro, ma soprattutto per conoscere questo mondo musicale di Erika Boschiero. Tra l'altro ne parleremo tra un po' quando vorrai. Erika, sei recentissima vincitrice del Musicultura. No, non sono proprio vincitrice del Musicultura, ho vinto il premio per il miglior testo. Sì, a Musicultura ed è già molto. Vabbè, insomma. Sì. Allora parliamo di questo pezzo, è importante l'arrangiamento. Enrico mi diceva una cosa fuori microfono, adesso me la dice in diretta. Il discorso dell'arrangiamento, com'è nato questo pezzo? Tu hai detto che sei entrato mentre il pezzo rota, cioè rota si chiama? Nota l'aveva non già era male rota? Era sì, un po' male. Renato l'aveva già arrangiata in una certa maniera, io dico. Sì, come ti raccontavo prima, lui è un chitarrista e da chitarrista ha dato un'impronta principalmente sull'uso delle chitarre e tra l'altro lui ha suonato molto musica brasiliana, per cui si sente una certa influenza. Il Sud America sì, si sente. Certo, si sente benissimo questo pezzo. Niente, io sono arrivato lì chiamato da lui, ma come altri musicisti, lui faceva busking a Venezia e conosceva un po' sia i musicisti che vivevano a Venezia, che facevano i musicisti di professione, che i vari buskers. Infatti ci sono altri musicisti che partecipano poi alla registrazione, che sono Gabor, che è un liutista che suona tutt'oggi a Venezia, ogni tanto lo si vede sul ponte di Rialto, oppure un violinista, tutta gente che lui aveva contattato e che riteneva potessero dare un apporto significativo nel disco. Io sono capitato lì, loro lavoravano sul Montello, a località Busa de Amessa, cioè questo agriturismo, che gli avevano lasciato lo spazio proprio per lavorare, e facevano questa preproduzione. Io sono stato invitato da Renato lì e devo dire che sono rimasto entusiasta poi dei testi, soprattutto dell'arrangiamento. C'era da lavorare. Renato infatti mi aveva chiamato proprio per questioni inerenti ai fiati, essenzialmente. Poi lui mi ha fatto improvvisare all'inizio e poi da lì un po' alla volta insomma è nato un arrangiamento che è forse un po' ridondante, cioè nel senso che come prima esperienza ci si voleva mettere talmente tanta roba che forse si pecca in qualche punto di eccesso, però secondo me si sente molto l'energia. Sì, sì, esattamente. Ed è quello che poi alla fine conta, cioè, vale. C'era proprio una forte spinta di purezza, no? E si sente quello. Bene, ha spiegato benissimo com'era l'idea del pezzo, chiaramente. Sì. Secondo me li facciamo suonare, chiaro, è l'ora adesso. Io infatti stavo abbassando il microfono di Enrico, perché proprio me lo volevo sentire suonare il clarinetto, giusto? cosa ci fate ascoltare adesso? Vi facciamo sentire Anita, che è un cavallo di battaglia, la canzone con cui ho vinto il premio Bianca da Ponte 4 anni fa. Che è quello che il pezzo che apre il disco, insomma. Sì, è il pezzo che apre il disco. Perfetto. Ma ve lo facciamo dal vivo. Ok. Lei è appena uscita dal manicomio della città, al mondo per lei nella sua ora di libertà. Il 12, deve prendere il 12, la fermata è là. Ecco arriva, forza sali, prendi tutto e va. Piazza Garibaldi, prego, sa memoria l'orario. Capochino, sguardo acuto, al collo una corona del rosario. Giuseppe lì mi aspetta da 200 anni. Io l'amerò di nuovo e spero non mi inganni. Piove, si aprono le porte, lei si avvicina. Ama la statua, intanto sputa sull'Italia che cammina. Garibaldi, sguardo di pietra e piccione sulla testa. Guarda il tetto di ombrelli danzanti in questa strana giostra. Oh Giuseppe, tua figlia in rovina, piange il ranto da esposta in vetrina. Il tricolore sventola sulla menzogna, suo destino sarà la gogna. Alza il braccio nella pioggia che le è stata regalata. Le gocce sul finestrino corrono veloci nell'andare, portano via i pensieri di chi continua a camminare. Lì dietro al vetro un'apparenza di realtà. Ciò che è dentro e ciò che è fuori si confonde. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Erika, mi permetti di dirti una cosa? Dimmi. Si vede che ti piace, si sente meglio che ti piace tanto De André. Sì, è vero, su questo pezzo si sente proprio. Quando ogni tanto dico che sono cresciuta a pane De André, perché è un po' vero, eh. Sì, c'è questo ritorno, questa canzone così ritmata, dà veramente un'immagine simile a quella di De André, insomma, nel suo modo di fare la musica. Ma penso sì, un po' sia melodicamente parlando, ma anche per il fatto che lui più di tutti, insomma, è stato maestro nel raccontare le storie degli altri e le storie soprattutto delle persone più ai margini, no? Come può essere Anita, questa figura di questa donna uscita dall'ospedale psichiatrico, per cui insomma grazie per aver notato il ricordo di questo grande. Questa è una storia vera, questa che hai raccontato su Anita? Ma sì, nel senso che non so se si chiamasse Anita, perché è una persona che ho conosciuto in autobus, anzi neanche conosciuto, incontrato, ma non ci siamo scambiate nemmeno una parola. Lei mi guardava molto attentamente, io guardavo lei, e mi ricordo che in questo pomeriggio di pioggia torrenziale si rimase lì a bagnarsi, perché non aveva l'ombrello, per un bel po' di tempo, sotto la statua di Giuseppe Garibaldi che sta a Padova. Io ero lì appunto a studiare e guardava la statua. continuamente, così ho immaginato che fosse innamorata di questo Giuseppe Garibaldi. Così è nata la canzone. Che bello. Ma in generale le altre canzoni nascono da questi tipo di spunti? Ma dipende. Molte sono nate da storie come questa, altre nascono da qualsiasi cosa. Non c'è, ogni canzone è un mondo a sé, come le persone. Certo. Non puoi mai vedere da dove cominciano e dove finiscono. Tu hai citato De André, giustamente, che è un tuo punto di riferimento. Poi c'è anche Johnny Mitchell, ne parleremo più tardi. Certo, sì. Lui ci tiene molto a Johnny Mitchell. Tengo molto a Johnny Mitchell, decisamente. Però c'era anche sgorga una cosa da questo pezzo, la musica popolare. Sì, su questo sì, si sente molto. Si sente molto la musica, soprattutto nel ritornello finale che avete fatto assieme. Mm-mm. Benissimo, poi Enrico ha fatto uno stupendo assolo di clarinetto, Giovanni l'ha seguito con le spazzole, come bello, tipo molto intimo. E sì, c'è la musica popolare che viene fuori fortissima in questo pezzo, anche negli altri, però in questo pezzo dal vivo assolutamente c'è proprio la ricerca delle radici. Sì, secondo sì, me. È vero. E beh, perché è una parte importante, cioè noi veniamo da lì, esattamente, che non si voglia o no, per cui è bene anche che ogni tanto venga fuori quella radice. È fondamentale, secondo me. Ok. Bene, io vi ricordo che questa è sempre Blu Radio Veneto, la vostra emittente in questo istante, con Erika Boschiero e questo suo dietro ogni crepa di muro, e siccome lei ha rotto il ghiaccio, io a questo punto ne chiederei di farne un'altra, magari anche abbastanza... subito, sì, certo. Cosa dici, Erika? Non c'è problema, guarda, anzi, problema. Visto che siamo in qualche modo, non so se avete notato, però Anita, io ho messo in bocca ad Anita delle parole rispetto al nostro paese, no? Quando parla di, quando dice a Garibaldi, tua figlia è in rovina, piange Rantola esposta in vetrina, insomma il riferimento è piuttosto esplicito. Ebbene, la canzone che vi facciamo sentire adesso è un'altra canzone che in qualche modo racconta l'Italia, insomma, degli ultimi anni, ecco, per essere generici, che va bene così. E si intitola Garbuglio. Blu Radio Sera. Lasciò un messaggio dal suo calesse che non cadesse in tentazione la vistosa esecuzione di paesaggio del sultano Solimano in erezione. La residenza dell'esistenza è la resistenza all'evidenza, la residenza dell'esistenza è la resistenza all'evidenza, la residenza dell'esistenza è la resistenza all'evidenza. Scusate, io abito nel mio abito. Scusate, io abito nel mio abito. Quanto dista il prossimo appuntamento? Il tempo che cambi il vento. Il tempo che cambi il vento. Quanto dista il prossimo appuntamento? Il tempo che cambi il vento. Il tempo che cambi vento. Lo straccio del poveraccio che vende ghiaccio al mercato nero, un cimitero fra i palazzi, un monastero per i pazzi, si fa laccio per la testa del sultano di Schiamazzi. La percezione di un'intenzione, l'attenzione alla direzione, la percezione di un'intenzione, l'attenzione alla direzione, la percezione di un'intenzione, l'attenzione alla direzione. Scusate, io abito nel mio abito. Scusate, io abito nel mio abito. Quanto dista il prossimo appuntamento? Il tempo che cambi il vento. Il tempo che cambi il vento. Quanto dista il prossimo appuntamento? Il tempo che cambi il vento. Il tempo che cambi vento. Dormendo Sto scuotendo il ventre, fremendo ascese sul grande schermo. Un terno scongiurato all'otto inferno di un pasticcio scotto sta tenendo sempre meno questo marchingegno rotto. Che l'ignoranza dell'arroganza è la vecchia danza dell'abbondanza. Che l'ignoranza dell'arroganza è la vecchia danza dell'abbondanza. Che l'ignoranza dell'arroganza è la vecchia danza dell'abbondanza. Scusate, io abito nel mio abito. Scusate, io abito nel mio abito. Quanto dista il prossimo appuntamento. Il tempo che cambi il vento. Il tempo che cambi il vento. Quanto dista il prossimo appuntamento. Il tempo che cambi il tempo. Il tempo che cambi. Questa è nuova però, eh? Io non l'avevo mai sentita questa canzone qua, o mi sbaglio, Erika? È abbastanza nuova, sì. Su YouTube c'è, però è recente. È recente. Sì. Però non c'è nel disco. No, nel disco no. E c'è una cosa da dire in questo pezzo. Io ho notato due cose, due momenti. Vai. Il momento più importante, essenziale, che è questa forza dello swing. C'è molto swing, proprio bello swing. Che Giovanni Natoli è l'uomo dello swing. Esatto, io ho visto come usava le spazzole, proprio ideale. Poi c'era Enrico che ti dava una mano. Ti sei tirata l'ira in mezzo Italia con questa frase. E poi c'era una parte, piccola parte, ma importante, il ritornello che dava... una canzone abbastanza romantica, un ritornello che era un'altra cosa rispetto alla parte centrale del pezzo. Due cose diverse, lo swing e il ritornello. Volutamente, Erika, così? Sì. Ma non è che ci sia una questione di concetto, chissà che cioè, ci sono due momenti della canzone, un momento più... quasi la declami, anche... la declami, può essere una... ma declami. Sì, è una speranza, come dire, quando dico quanto dista il prossimo appuntamento, no? Lì la canzone si apre, quel po', insomma, cambia sicuramente armonia, melodia, ed è perché, insomma... volevo dare un po' di speranza. Poteva assomigliare i testi di Leo Chiosso, una volta li scriveva per Buscaglione, sai? Ah. Chiaramente scriveva in questa maniera, Buscaglione cantava in questa maniera, chiaramente, con le dovute differenze, certo, ma sì. Cantava in quella maniera, e poi c'era sempre il ritornello dentro il pezzo. Che apre un po'. Leo Chiosso era un genio a scrivere questi pezzi, chiaramente. Così. Io devo fare gli auguri, se mi permetti, Erika. Vai. A una cara amica, si chiama Franca Puglia. E siccome ha compiuto gli anni ieri, ma oggi c'è qualcun altro che li compie, allora ne approfittavo. No, non c'è questo. Non c'è. Ciao Franca, un abbraccio e buon compleanno di cuore, ma lo facciamo visto che è qui presente, anche a Giovanni Natoli che oggi compie gli anni. Sì, grazie, vi ringrazio. Si sta benissimo qui, grazie. Spero sia un bel regalo di compleanno che ti sei fatto questa sera. Accidenti. Allora, Erika, cos'è che volevo chiederti io? Sì, diciamo che tu più che celebrare, tu le racconti le tue canzoni, le narri. Bah sì, mi riesce un po' meglio forse la narrazione, perché la celebrazione dipende, se si è molto bravi funziona, altrimenti si cade nella banalità, mentre nella narrazione questo è più difficile. E ti viene proprio spontaneo essere così, insomma. Sì, poi sai cosa? Io prima di cominciare a scrivere canzoni scrivevo racconti. Per tutto il periodo delle superiori ho scritto racconti, e credo che forse in qualche modo questo abbia influito, anche poi influenzato quello che faccio adesso. E continuerai comunque su questa linea. Chi lo sa? Questo non lo so. Vedremo. Beh, per il prossimo disco ci avrai qualche mezza idea, insomma. Sì, vabbè, sicuramente. Il prossimo disco, insomma, le storie ce n'è ancora tante da raccontare. Insomma, qualcuno mi chiama cantastorie per questo. Certo. Sei molto prolifica, tende a scrivere. Abbastanza. Vado a periodi. Ci sono periodi di calma, di bonaccia, e altri periodi in cui scrivo molto, quindi sì. Beh, sai che con il prossimo disco cosa devi fare, vero? Venire qui. Ce lo prometti? Vieni. Promesso, qua. Sì, promesso, assolutamente. Promesso. Una cosa interessante che ho letto è che all'inizio di carriera, proprio il primo pezzo che hai scritto, ti sei hai studiato un sonetto di Elisabetta Seconda. Sì. Come mai? Ma guarda, in realtà questo è uno scoop, perché non l'ho mai detto. L'ho letto io. Sì, in radio, non è mai successo di parlarne. Io non scrivevo canzoni, suonavo la chitarra già dai tempi delle medie, ma non avevo mai scritto canzoni. Mi ricordo che la professoressa di inglese al liceo ci chiese di presentare in qualche modo ai vari gruppetti di studenti i sonetti di Elisabetta II, e bisognava farlo in maniera originale. Chi aveva fatto la slide magari col PowerPoint, chi aveva fatto non so che cos'altro. E io ho detto, boh, quasi quasi provo a metterci la musica. Ed è nata una canzoncina che effettivamente funzionava. E da lì poi ho cominciato, facevo una cosa così. Sì, sì, dai, adesso ce la rifai, dai. Ve la faccio, era una cosa di questo genere. È uno scoop di Blu Radio Veneto stasera. Il ritornello è così. Go, go, go, go, seek some other where, importune me no more, importune me no more. E poi andava avanti così. Insomma, questa era la prima canzoncina. Bene, beh, poi ti sei buttata su Spoon River, però. Ho fatto, sì, una cavolata. Perché? Perché c'è chi ha fatto molto, molto, molto meglio. Ma lei, sì. Lui aveva la Pivano che gli dava una mano, però. Comunque dai, sono le prime canzoncine, sì, per okay, cui okay. Le consideriamo come tali. Beh, sì. Bello. Questa era una canzone folk, praticamente. Sì, sì. Decisamente folk. Sì. Beh, chiaramente si parla di Inghilterra, quindi il folk è proprio, fa parte. La chiamava. Esattamente. Sì. Ricordo i nostri numeri di telefono e di SMS, quello in studio è lo 049-875-6423, mentre per quanto riguarda gli SMS è il 346-2320-033. Se qualcuno volesse chiedere qualcosa a Erika oppure ai suoi musicisti, ben volentieri siamo qui, insomma accettiamo qualsiasi cosa, vero Erika? Sì, sì, siamo qua. Sì. Senti, come sei messa? Se hai voglia di fare un'altra canzone, vuoi che parliamo un po' di musicultura? Vuoi fare una canzone e poi parliamo di musicultura? Facciamo una canzone e poi parliamo di musicultura. Sì, mi piace questa cosa. Ti piace questa cosa? Sì. Cosa ci fai ascoltare? Guarda, allora, io per anni e anni e anni non ho scritto canzoni d'amore. Perché era un tema troppo delicato e mi sembrava anche molto difficile scrivere una canzone d'amore senza ripetere cose che sono state, insomma, ci sono stati scritti i capolavori sull'amore, quindi difficile, insomma. E però poi da qualche anno, questa del 2009, ho cominciato anche a scrivere le mie canzoni d'amore ed è nata questa che insomma, a cui io sono affezionata e che in qualche modo al suo interno dice proprio io che d'amore non ho mai cantato, quindi sono io naturalmente che, insomma, è molto autobiografica, se non si è capito, e ve la facciamo sentire. Sentitela. Papavero di ferrovia. Sono papavero di ferrovia, tu treno veloce che vola via, carezza un po' scombina. Io, il mare calmo, sorpreso da una tempesta che improvvisa fa gonfiar le onde a prua. Io che d'amore non ho mai cantato, so che l'amore a volte va imparato e a volte si nasconde. Con le parole io ho sempre giocato, ora che ne ho bisogno non ho fiato e ogni sillaba muore. Saluto alla stazione, è un incavo di spalla cui promettere una lacrima in partenza. La geografia di un corpo dà una vertigine nell'anima e non puoi più farne senza. Io che d'amore non ho mai cantato, so che l'amore a volte va giocato e a volte ti risponde. Come conchiglia tu m'hai innamorato, silenzio e vortice dimenticato e non c'è più pudore. È su te che si invola ogni attimo, verso te ogni strada e ogni battito. canto i canti che ti canto c'è. Amore un posto solo per me, te strappato all'avvenire. Un solo gesto da abitare poi, lascia cadere il buio sopra noi, che è tempo di partire. Io che d'amore non ho mai cantato, so che l'amore a volte va danzato e a volte ti confonde. Sapresti pari ed eccoci signori a voi, due ombre sotto i riflettori e noi sfumati nel vapore. È su te che si invola ogni attimo, verso te ogni strada e ogni battito. Io che d'amore non ho mai cantato, so che l'amore a volte va imparato e a volte ti risponde. Con le parole io ho sempre giocato, ora che ne ho bisogno non ho fiato. E ogni sillaba muore. Ti confesso che questa mi piace tantissimo, eh? È una delle canzoni che ti ho postato spesso nella mia pagina di Facebook. Grazie, ti ringrazio. Anche a me piace. Immagino. È un pezzo molto bello, è nella nuova direzione rispetto all'album che avevi fatto. Forse è un po' meno popolare, no? È decisamente meno popolare. Cioè, sì, l'elemento popolare è quasi scomparso, è messo, non dico da parte, è un po' confuso, ecco, possiamo dire così, nel senso positivo del termine. Certo, sì. Allontanato, volutamente forse, per altre vie, per altre intenzioni. Ma perché è anche bello, come dire, no? Esplorare cambiare. Nuovi terreni, certo, cercare cambiare. Altrove, sì, assolutamente. E quindi sarà la direzione da portare avanti, probabilmente questa. Ma sì, questa, ma non solo questa, insomma anche altre, ci si muove trasversalmente. Su come la fronti. Fai? Adesso l'hai fatta in versione acustica, qua stasera. Sì. Su un palco, come la fai questo pezzo? Lo allarghi, Enrico, lo allarga, Giovanni lo allarga ma di più? Guarda, come durata no, è questo. No, come durata no, come impasto delle musiche. Beh sì, qui manca il basso. È un po' difficile riuscire ad eseguirlo, cioè comunque a dare l'impatto che ha dal vivo, perché è molto importante il basso, perché c'è questo incalzante ritmo, sì, di batteria che si appoggia sul basso che marca, no? Farlo così è un po'... Poi io suono il sax, non suono il clarinetto nel pezzo, è un po' diverso. Esattamente. E poi è una canzone d'amore atipica musicalmente parlando, cioè di solito non sono così le canzoni d'amore musicalmente, è atipica e ha un sacco di variazioni sui temi, cioè sì, io l'ho sentita così in questo momento. Poi ultimamente volevo aggiungere che gli arrangiamenti stanno maturando e stanno cambiando, è un po' un work in progress per quanto riguarda le nuove canzoni. Infatti anche recentemente abbiamo avuto l'apporto di un pianista, di Giacomo Franzoso, che è entrato da un po' di mesi nel gruppo e quindi si riesce a lavorare in maniera un po' diversa, nascono idee si sperimentate continuamente, sì, questo vuol dire. Anche perché tutto questo materiale non è ancora stato bloccato in un disco, quindi si sta un po' lavorando. Insomma. Certo. Io volevo anche dire due cose. La prima è che... finalmente parla anche Giovanni. Grazie. La prima è che questa idea dell'arrangiamento di batteria che riproduce così espressionisticamente un treno è un'idea di Erika. Io non ho fatto altro eseguire una sua idea musicale. Secondo me Erika ha un notevole senso ritmico. Io credo moltissimo che lei sia soprattutto una scrittrice di racconti. Io ho sempre pensato che questa sua esperienza primitiva ritorni sempre, e credo che la forza delle sue canzoni stia proprio nel creare delle immagini semplici ma non banali, molto efficaci e molto trasparenti, di modo che non c'è nessun filtro tra chi ascolta e tra chi esegue. Ed è questa la sua caratteristica più importante. E poi riguardo gli arrangiamenti, stiamo come arrivando quasi inconsciamente e con un'attività di palco, e ha una dimensione secondo me molto rarefatta, acustica. Io stesso prediligo le spazzole, il brano è suonato più o meno così anche dal vivo, e vedo che Erika crede molto, credo, in questa cosa. Cioè, è un sound un po' dal anche jazzisticamente parlando, sì, si è creato jazzisticamente parlando rarefatta, sì, ma molto libera secondo me, non ci sono delle chiusure, c'è la possibilità di gestire, di rivoluzionare i pezzi. C'è una buona mediazione tra quello che deve essere fatto e quello che si può interpretare. È giusto che sia così, che ci sia un equilibrio tra le due parti, che non ci sia né solo aperto né solo chiuso. Ho capito. Perché certe cose non si possono aprire del tutto, certe cose non si possono chiudere. Giusto, giusto, esatto. Allora, Erika, che souvenir ti è rimasto di musica e cultura? Ma guarda, ce ne sono rimasti molti, perché poi Giovanni ed Enrico mi hanno seguito insieme a Giacomo anche e a Laura Balbinot, che è una bravissima violoncellista che ci ha accompagnato in questa avventura, che è proprio un'avventura, perché è cominciata a gennaio, anzi a novembre, quando ho spedito il materiale, poi le audizioni di gennaio, poi siamo arrivati fra i primi 16 e quindi la presentazione dei 16 finalisti di nuovo a Recanati eravamo, e poi tutto l'iter di Radio 1, il comitato artistico di garanzia eccetera, e siamo approdati fra i primi 8. E musicultura è un'esperienza effettivamente straordinaria, perché è straordinaria la città di Macerata, l'organizzazione è impeccabile, ma sai, anche lo spirito è molto bello, perché ti leghi con un iter annuale così complesso, hai modo di legare molto con gli altri artisti, poi lì resti 5 giorni dove sei sempre insieme, per cui anche noi abbiamo fatto delle splendide amicizie nuove. E poi ragazzi, l'emozione di suonare all'arena Sferisterio me l'avevano raccontata, ma vi giuro non la immaginavo così, nel senso che palchi grandi ce ne sono tanti dovunque, ci sono gli stadi, ci sono i teatri, qualche palco grande l'abbiamo fatto anche noi, ma quel palco è talmente bello, cioè quando tu metti piede sul legno del palcoscenico e guardi quello che hai di fronte a te, quello che hai di fronte a te è talmente bello, talmente grande, che tu non esisti più e quindi non hai più paura di quello che devi fare. Se provi un po', come dire, ti rilassi e guardi quella meraviglia, e nel frattempo canti e fai la tua canzone. Quindi eravamo tutti molto rilassati, molto, come dire, ispirati in quel momento, ed è andata molto bene. Poi c'è stato anche il premio, poi insomma essere presentati da Fabrizio Frizzi è stato comunque bello, insomma una bella cosa. Mi sentivo un po' Miss Italia, scherzi a parte, è stata un'esperienza speciale proprio, penso, no? Che ripeterai? Anch'io mi sentivo Miss Italia. Sì. Quindi è proprio il posto che dà questa sensazione, questa emozione. Sì, sì, è proprio la bellezza, di questo colonnato, delle luci, della gente, perché ce n'è tanta, ma è raccolta, ascolta, è abituata ad ascoltare quel genere di musica, quindi insomma tutta una serie di elementi che non sono facili da trovare in giro. E d'altronde, se è di un certo livello questo premio, qualche motivo ci sarà, sì. Insomma. Quindi. È un premio importante, perché gestisce la musica italiana, ma la musica italiana di qualità, quello è fondamentale. Ma credo che sia, cioè, dopo Sanremo, e premettiamo che Sanremo noi più di tanto non interessa, non voglio che sembri un'ipocrisia, chiaramente se ci si va si è tutti contenti e fa molto, certo, molto bene, però diciamo che sappiamo quello che passa per Sanremo gran parte delle volte. Ecco, brava. Ecco, invece musicultura è un'altra cosa, ed è forse quello il traguardo che noi speravamo più ardentemente in qualche modo di toccare, e esserci arrivati è stato importantissimo, insomma un bello sprono a continuare anche. Che ripeterai? Ma sì, penso proprio di sì, non so quando, nel senso che adesso è bene magari lasciar passare un po' di tempo, certo. però sì, anche solo per l'emozione di poter magari tornare su quel palco, quello vale. Ma ci sono delle regole, cioè pezzo inedito assolutamente? Sì, deve essere un pezzo inedito e quindi... Deve essere proprio così. E poi... Beh oddio, ho pubblicato in un disco che non abbia stampato più di 5.000 copie, quindi insomma... Può anche passare se uno ha fatto magari un disco con una tiratura minore. Ok. Ma tu hai portato solamente souvenir o anche qualche altro? Io avevo portato souvenir e garbuglio, quello che avete sentito. Sì, all'inizio, poi loro ne avevano ascoltate altre, ma avevano deciso per souvenir, che poi vi faremo sentire, insomma. Ne parliamo così tanto, la sentiamo. È arrivata l'ora? È arrivata proprio l'ora. Anche perché abbiamo già finito il tempo. No, abbiamo ancora. La quarta, cos'è? La quarta canzone, no? Sì, va, ma bene, io ti terrei qui fino a domani mattina. Ti ringrazio. Io però a una certa ora me ne andrò perché ho bisogno di riposare. Comunque, no, scherzi a parte. Ti vorrei veramente fino a domani mattina perché sei talmente brava e la tua musica è talmente bella. Poi è raro avere delle cantastorie, perché tu sei veramente una che canta, chiedo scusa, e narra le storie. Questa Souvenir io l'ho ascoltata per caso una sera su YouTube, leggendo appunto che aveva vinto il premio Musicultura, e ti dico, mi sono emozionato, mi sono quasi commosso, cioè ho trovato una autentica meraviglia, una perla, credo sia una delle tue più belle canzoni, assieme che poi a quella che succederà subito dopo, che io, almeno per quanto riguarda i miei gusti, Erika, poi ognuno c'ha i suoi, ovviamente. Certo. Ma sai, qui c'è da dire anche che adesso noi ve la faremo sentire dal vivo, però molto ha fatto nella versione che si può sentire su YouTube anche l'arrangiamento di Fausto Mesolella e poi di Giovanni Boscariol. Fausto Mesolella è il chitarrista degli Avion Travel, giusto per collocarlo. Mm-hmm. E nelle sue estrema semplicità ha saputo dare molto spazio alle parole, e credo che appunto quando la musica non soffoca ma eleva il testo, allora l'arrangiamento è riuscito, insomma, pienamente, no? Ci vogliamo emozionare, Maurizio? Sì. E vogliamo far emozionare anche gli ascoltatori, certamente. Quelli che non hanno sentita quella volta a Macerata. Chiaro. Va bene, Erika? Siamo qua, certo. Souvenir. Souvenir dal prossimo mio viaggio, che sarà nel deserto in ogni mio miraggio, e tirerò una corda fra la palma e il vento, sarà l'aquilone il mio bastimento. Ti porto un souvenir che sa di acqua e sale, ti porto un souvenir preso dal temporale, ti porto un souvenir e una bottiglia vuota ed un ragnetto appeso a questa nuova nota. La terra dei poeti sa di sabbia e vento, hanno bandito i soldi e i muri di cemento, hanno lasciato il tempo steso ad asciugare e un paio di finestre a far entrare il sole. Ti porto un souvenir dal ventre del pianeta, un sasso, una conchiglia, un'ape, una moneta, un cristallo d'argento chiederò al ghiacciaio ed un secondo inciso dall'orologiaio. Porterò una mappa che non ha confini e delle indicazioni su dei bigliettini. Non serviranno strade o rotte da capire, solo gli occhi chiusi quando è l'imbrunire. La terra dei poeti sa di sabbia e vento, hanno bandito i soldi e i muri di cemento, hanno lasciato il tempo steso ad asciugare e un paio di finestre a far entrare il sole. Cioè, non so se ti rendi conto, Maurizio, cioè, è difficile stare con tranquilli, diciamo, senza essere commossi. È veramente una meraviglia, Erika. Complimenti vivissimi di cuore. Grazie. È un pezzo molto bello, decisamente, arrangiato in una certa maniera, quasi cantato con voce buona, appena appena sussurrato in alcuni momenti. Souvenir, già dice il testo, il titolo. e ha vinto il premio del testo a Macerata. E non è semplice arrivare a Macerata e vincere un premio, non è semplice musicultura, è molto difficile, molto complicato. Ma diciamo che ci prova molta gente. Ci prova molta gente. E noi siamo orgogliosi di essere arrivati. Le selezioni sono fatte in una certa maniera. Sì. Quindi. Erika, ti porto i saluti di Antonella, che è una detta, un ufficio stampa della zona Ligure, e dice: bella voce, interpretazione sentita, brava davvero. Grazie Antonella. Poi un collaboratore di Mamma Rai, cioè Giorgio Perkins, che saluto caramente, un caro amico che ci sta ascoltando. Grazie. E poi ci siamo dimenticati, Erika, io ho scoperto che abbiamo una carissima amica in comune, io e te, e che è Elsa Martin. Certo. Io vi ho scoperto e vi ho trovato anche su YouTube con una canzone che avete cantato insieme. Lo dico già in anteprima, adesso sarà prossimamente nei nostri studi anche lei, verrà a fare anche lei il suo live, presenterà il suo disco, che poi tra l'altro è cantato metà in italiano, metà in friulano, giusto? Sì, esatto, sì. Verso si chiama. Verso, esatto. Magari ci sta ascoltando, la vogliamo salutare, Erika? Beh, se ci sta ascoltando, Elsina, ti aspetto. Ciao Elsa. Ciao. Ciao a tutti. Ui, ma ci sei davvero. Mitica. Meraviglia, ciao. Ecco, questa è un'altra gran bella voce. Elsa, tenetela d'occhio perché è brava davvero. Ciao Elsa, come stai? Come stai? Bene, sento un po' mille voci, nel senso la mia che parlo, poi la mia in ascolto. Sentite? Sì, ma ti sentiamo un po' disturbati, comunque va benissimo lo stesso, cerchiamo di capire quello che dici lo stesso. Ok, mi fa tanto piacere salutarvi. Grazie. Beh, diciamo che con Elsa abbiamo fatto tante cose, facciamo parte della stessa associazione che si chiama Ambasciatori in Musica, e così la citiamo pure, perché insomma abbiamo fatto parecchie avventure grazie a questa e non solo, per cui insomma siamo compagni di palco. Siamo state compagne di palco in più occasioni ed è sempre molto bello cantare con lei. Soprattutto in una serata, in una canzone, meglio dire particolarissima, per i terremotati. Sì, lì c'è, cioè, anche questa si può trovare su YouTube, sì, esatto. 3:32 è una canzone che avevo scritto dopo il terremoto dell'Abruzzo e che abbiamo cantato insieme io ed Elsa a Gemona, quindi non in una volta. Sì, non in un luogo qualsiasi, insomma. Esatto. Mm-mm. Elsa, mi raccomando, dai che ti ascolto adesso. Grazie. Un bacione, Elsa. Sei emozionata? Anche a te, tesoro. Sei emozionata, Elsa? Un pochino, sai, questa cosa carrambata. No, mi fa molto piacere. Ascoltatevela e gustatevela. Guarda, l'abbiamo già fatto prima nelle prove, adesso lo stiamo facendo anche in diretta. Insomma, Erika è una grande, insomma. Certo. Va bene, Elsa. Grandissimi. Grazie. Grazie. Ciao, Elsa. Ciao. Grazie della disponibilità e a presto con te. Un abbraccio a tutti. Ciao, Erika. Ciao, Elsa. Allora, è stata una mia idea, Erika. No, bellissima. Poi, tra l'altro, io e lei siamo veramente amiche e ci vogliamo molto bene, quindi stupendo. Mi hai fatto un bel regalo. Allora, c'è un altro saluto da parte di Luca Penna, che dice: voce molto calda e testi molto belli, complimenti ad Erika. Grazie Luca. È un cantante anche lui. Ah, ecco. Poi anche Giulia Daici ti saluta nuovamente, insomma, quindi ti sta ascoltando. La Giulietta, sì, la Giulietta, grazie. Lei è già stata qui, cioè, è emozionata anche lei con la sua musica, insomma. Siete un gruppo di amiche che una è più brava dell'altra, insomma. Ma vedi, è vero, c'è tanta gente brava, questo è il punto, e c'è troppo poco spazio per contenere tutti, anche perché molto spesso lo si lascia a chi magari fa cose diverse, diciamo così, e quindi noi ci si, come dire, si fa rete per non cadere, per mantenersi insomma su e fare le cose meglio che si può. Importante che non ci sia l'invidia, vero Erika? No, questa è giusto che non ci sia. Io sono fortunata perché personalmente non la provo, anzi mi leggo molto alle persone, Elsa è una di queste, però capisco che ci sia chi la prova e mi dispiace per lui, nel senso che uno che prova invidia profondamente, come dire, vive infelice alla fine. Certo. Questo è il fatto. Adesso arriviamo a un punto che mi interessa particolarmente. I critici hanno scritto, dopo averti sentita musicultura in qualche altro posto, chiaramente in tanti posti, perché tu hai suonato dappertutto e con tanti progetti, menestrello fatto, dono, è soprattutto questo, la nuova Joni Mitchell. E tu hai detto, a proposito di questo, Joni che dire un'artista unica che ammiro e amo. A volte quando, come lei, mi trovo sola su un palco con la mia chitarra, cerco di liberarmi da ogni peso e di esprimere tutto quello che sento. Perché Joni Mitchell? Perché Lauryn Caine? Perché Woodstock? Perché lei? Perché Blue? Ma perché Blu è bella, il riferimento è meraviglioso, disco meraviglioso. Sì. Guarda, tutto è nato da un commento su MySpace, quando ancora si usava, di Tolo Marton, che sì, un grande commentando una mia foto, disse: mi ricordi moltissimo Joni Mitchell. Ed effettivamente il primo collegamento che viene da fare è un collegamento fisico, sì, immagine, certo. Perché siamo, ci assomigliamo, sì, insomma, esattamente. Capelli, il viso, la forma del viso, insomma, così è. Però è anche vero che se poi andiamo a scavare sotto, io l'ho ascoltata molto e trovo che sia una delle artiste più grandi della musica folk, ma anche poi ha esplorato il jazz e altri generi della storia della musica americana, se non mondiale. Al femminile, perché è stata lei assieme a Carole King che ha sdoganato, esatto, l'universo femminile dal punto di vista e anche di vendita. E soprattutto che non è la sua arte non è mai calata, è sempre cresciuta nel tempo, ha sempre esplorato nuovi mondi, non si è mai fermata. Questa, certo, è stata la sua grandezza rispetto ad altri, insomma. E quindi poi è una che anche lei in qualche modo raccontava, ma va a raccontare, pensiamo a Amelia o altri, certo, grandi capolavori suoi, e quindi forse in qualche modo, insomma, sono onorata che qualcuno mi abbia così associato a lei, perché è veramente grande lei. Bene, una spiegazione perfetta che volevo sapere e ho sentito, sono molto soddisfatto. Grazie. Tornando a questo titolo, Dietro ogni crepa di muro, e a questo CD, c'è un'altra canzone, giusto per tornare indietro con i discorsi che facevamo poc'anzi, Erika, dove dicevo io che tu narravi piuttosto che celebrare, insomma, questa è un'altra narrazione di una delle più belle città del mondo. Sì, Venezia. Diciamo che è un racconto di molti angoli, forse, di Venezia e di quello che la città è fondamentalmente per me, almeno che quello che è stato per me. Ma tu ci vivi spessissimo a Venezia? Non ci vivo, ci vado spesso perché i musicisti sono tutti veneziani, infatti. Quindi se si vuol provare bisogna andare a Venezia, questo è. E Renato Nota l'ho incontrato a Venezia, diciamo che Venezia, se si gratta la vernice che è fatta di turismo e di, ok, Rialto e le mascherine e le cose, si trova molto, moltissimo, e quindi scavando c'è anche molto da raccontare. Posso dirti che la vernice diventa sempre più spessa, però? Ecco, da bravo veneziano, vedi qua, i due musicisti veneziani che la vivono, insomma, sentono anche a proposito, com'è, le difficoltà. Com'è la situazione musicale lì a Venezia? C'è molta gente che suona bene, uh-huh, e gli spazi dove suonare sono sempre pochissimi, ovvio, però c'è qualcosina in più. Diciamo che il fatto che sia un'isola non fa bene nemmeno la mente di chi suona. Molto spesso chi suona non si accorge che deve fare un po' di metri e fare un ponte per poter crescere. Io ogni tanto lo faccio, confesso, e a parte che sono anche vecchio e abbiamo gli stessi ricordi, tra l'altro. Certo, io e Giovanni, sì. Non posso bleffare sulla mia carta d'identità. C'è un limite che nella concezione della città, che è quella di non rischiare, di non investire sulla cultura, è paradossale, ma è così. Dall'altro lato, chi suona è soddisfatto di Venezia, si accontenta, pensa di essere più grande di quello che è, perché come si sa, chi sta in un'isola a volte non si rende conto che le dimensioni, le proporzioni sono alte. Inviterei a fare un viaggetto oltre il Ponte della Libertà per capire cosa vuol dire suonare. Te, Enrico, cosa dici? Ma sì, condivido quello che ha detto Giovanni. Il problema, secondo me, è proprio legato anche al magnetismo che ha la città alla fine, perché se uno vive lì e la vive da veneziano, oddio, fa sempre più fatica, è vero, perché adesso proprio a volte è impossibile, cioè anche, mi permetto di dire, anche da un punto di vista politico, la città non fa niente per aiutarsi, cioè a crescere in maniera diversa da quello che è solo l'investire in un turismo sfrenato, che non, in speculazioni anche di altro genere. Però per chi vive lì e suona lì, c'è la tentazione un po' ad impigrirsi, no? a stare lì, ad accontentarsi di magari sbarcare lunario facendo delle cose grosse nel palazzo, questo, quell'altro, e poi però non rischiare, insomma, di mettere il naso fuori. Cioè, ovviamente questo non è generalizzato, perché poi ci sono signori musicisti che si muovono e che, cioè, avete un esempio qui, insomma. Però sì, la città fa un po', crea un po' questo, fa un po' acqua. Sì. Va bene, ascoltiamo questa narrazione di questa città, forse una delle più belle al mondo, che sei d'accordo con me, Erika? Sì, beh, sicuramente sì. Dalla voce e dalla penna, forse meglio dire, di Erika Boschiero. Che poggi su di un bosco d'alberi, dal legno duro, strappati alla montagna, decine di anni fa, portati dalla piave per farne una città. Ogni angolo sussurra la fiaba veneziana, dopo 85 rintocchi dell'ultima campana, dall'acqua s'alzano antiche leggende, perché il passato ritorna presente, racconta che le case sono diverse che altrove, che le vie qui non si chiamano strade, delle piazze non è questo il nome, e anche i gatti son senza padrone. E suona la sirena, poi torna tra le pietre, richiamata dalla luna. Carezza ponti e fondamenta, sfiora le scarpe dei passanti, respira tra i portoni e tra i passi degli amanti, sale narrando di spezie di seta, del lattico di un lontano poeta, che racconta che nel fumo di una bettola è il sorriso di una donna che ammicca il ragazzetto, poi s'alza un po' la gonna, lo prenderà per mano, lo inviterà a salire, la notte veneziana oggi gli farà scoprire che l'amore è diverso che altrove, che la vita qui è diversa che altrove, che qui il tempo si può pure fermare, che ogni sogno è una promessa è un sogno da coltivare. Cerca la sua verità e il suo torto, l'annuserà, ma non potrà trovarla nel corpo, perché sfili una maschera e c'è un'altra maschera, con sguardo vuoto e labbra di ceramica, la verità sta nella storia e nei Radio. SMS 346 23 20 033. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Erika, stavo guardando l'orologio, già trascorsa più di un'ora in tua compagnia, è volata, sta volando purtroppo, io come ti dicevo prima ti terrei qui per molto tempo. Beh sì, è molto piacevole, effettivamente. Senti, io ti porto i saluti dalla città di Roma, c'è una carissima amica che siamo in contatto ed è tra l'altro anche bellissima e dice che hai una bellissima voce, e si chiama Fabiana. Ah, ciao Fabiana, grazie. E ti fai i complimenti ovviamente, ha detto che gli piace tantissimo la tua voce e la tua musica. Bene, saluti alla capitale. Saluti alla capitale. Enrico prima citava il liuto, in questo pezzo c'è il liuto, mi sì, pare. Sì, esatto, quello suonato. Come mai l'uso del liuto, Enrico, in questo pezzo? Ma è un'idea di Erika. Sì. Ma sì, un po' perché Venezia è la città del passato. Certo. Non ha più un presente, quasi insomma, e il liuto è uno strumento del passato indubbiamente, e in poi perché appunto c'era questo Gabor, questo liutista che suonava tra le calli di Venezia, molto bravo, e abbiamo pensato che ci stesse benissimo in apertura questo pezzo, semplicemente quella è l'idea perfetta, che andava bene, cioè doveva sì. suonare perfetta momento, non lo so, però doveva quel suonare in quel momento là, dare qui sì, l'input sì, sì, per sì. al pezzo che poi è proseguito, si è sviluppato chiaramente. Sì. Ok. Erika, nei tuoi momenti diciamo liberi, nel senso che non sai cosa fare, ti metti là e ascolti qualche canzone, qualche artista, cosa ti piace ascoltare? Qual è il tuo artista, a parte di Andrea? Allora guarda, ho dei periodi, vado a periodi, ho avuto il periodo fossatiano dopo di Andrea, ecco che è forse l'altro mio grande mito musicale, no? Qui volente o nolente comunque continuo a ispirarmi. E poi un po' di tutto, cioè vado da Joyce, Dulce Pontes, adesso ho scoperto una, oddio, io con i nomi sono un disastro, una musicista africana, ti ricordi come si chiama, Giovanni? Gnaore? Mi sembra, Gnaore, se non, vero? E poi... Che ci importa del sentite, mondo. Questo, ecco. Hai messo la mia canzone preferita di Fossati, tra l'altro, senza volerlo. Giuro, non lo sapevo. Questo è un capolavoro. Ah sì, anche per me. Ti sembra tutto visto, tutto già fatto, tutto quell'avvenire già avvenuto. Questo è un altro grande poeta della musica italiana. Senza dubbio, assolutamente sì. È anche un grandissimo musicista. Peccato abbia deciso di non suonare più, di non fare più niente. Ma io l'ho trovato... Pubblicitaria la cosa? No, assolutamente no. No, da lui no, non me la sarei aspettata pubblicitaria. L'ho trovato molto onesto, nel senso che ha deciso, cioè, ha sentito che non aveva più cose da dire, o forse semplicemente voleva vivere la sua vita, perché immagino che uno a quei livelli abbia una vita piuttosto caotica. Poi speriamo sempre che ritorni su un palco. Lui, lui diceva che rimaneva comunque nel mondo della musica. Infatti, sicuramente non riesce a starci troppo lontano, però probabilmente vuole anche un po' recuperare la sua vita, lui diceva comunque fare un po' le sue cose, e quindi ed è giusto così, insomma è una scelta che io rispetto al 100%. Saluti anche dalla Sicilia, Barbara Scardilli con Radio Web Italy, e poi ancora ti saluta, eccolo qui, Marco Bianchi. Ah, preparati Marco, questa è l'unica cosa. No, Marco è un bravissimo chitarrista e arrangiatore, proprio dice, bravo. Dice grande Erika. Grazie Marchetto. Allora Erika, abbiamo ancora una ventina di minuti. Beh, aspetta, prima però volevo chiedere anche ai musicisti cosa ascoltano loro. Certo. Vai Erico. Ma al momento ascolto molto jazz, anche perché ho deciso di prendermi la specialistica in jazz, quindi questa laurea, sono entrato direttamente al biennio e adesso ho fatto il primo anno, l'anno prossimo è il secondo anno, quindi per forza di cose devo ascoltare molto jazz, però ho ascoltato un po' di tutto, diciamo, io non metto dei paletti, non dico quel genere, quell'altro genere non mi piace, oddio, entro un certo limite. Cioè, certamente. Stiamo parlando la di musica house, ci sono cose che si sentono che non, difficilmente, ecco, definirei musica. Però veramente ho ascoltato di tutto. Da ragazzino avevo il mio gruppo di progressive, primi anni 80, così. E poi ho iniziato invece a entrare più nel jazz. Ho suonato anche classica quando studiavo musica classica, però poi per lo più ho suonato jazz, insomma, molta bossa nova, perché ho una collaborazione che dura ormai da 15 anni, forse di più, con un gruppo che almeno nella provincia di Venezia, ma anche fuori, perché suoniamo un po' in giro, è conosciuto in Ossa Alma Canta, e quindi ho fatto molta bossa nova, e poi sì, insomma jazz al jazz. Momento, ecco, al momento mi sono fissato lì. Giovanni? Ma per quel che mi riguarda, ma posso dire una cosa? Cioè, sì. Adesso io sono un po' confuso riguardo l'ascolto, a parte una cosa che dirò, perché adesso è tutto bellissimo, tutto figo, tutto spacca di brutto. Non è vero, non è mai stato così e mai lo sarà. Io, nonostante abbia iniziato comunque a suonare rock, suonavo pezzi di Yardbirds, tra l'altro. Mica male, non puoi fare uno qua adesso. Sono stati grandi. Tutti ricordano i Beatles e nessuno ricorda gli Yardbirds. Sì, purtroppo sì. E casualmente il chitarrista mi ha fatto notare che io ho una mano per il jazz. Infatti io ho ascoltato e ascolto tantissimo jazz. Però io amo soprattutto un artista che non è jazz ed è un cantautore inglese, che si chiama Nick Drake. Per me mica il solo grande, te. Il più grande musicista mai esistito. L'unica persona che riesce ancora a commuovermi. Grande, sì, Nick Drake. Nick Drake è un personaggio straordinario. Noi abbiamo ospitato tanta gente, e tantissima gente, anche giovani, molto giovani, hanno sempre citato lui. Qualcuno dice: perché l'ho visto in quella pubblicità famosa della... quella della Volkswagen, sì. Che ha dato un notevole contributo. Io credo che lui stia ringraziando al cielo. Certamente, perché ha dato... hanno ristampato tutti i suoi dischi, è stato molto positivo. Ma Nick Drake, ragazzi, è Nick Drake. Poi era difficile suonare Nick Drake, è difficile, perché è particolarissimo, però un genio. Sì, e poi musicista di una purezza incredibile. Lo sapeva anche Joe Boyd, che non riusciva mai a farlo incidere. Ma parleremo, faremo una puntata io e te, Giovanni, su Nick Drake. Io potrei andare avanti 60 giorni a parlare di Nick. Perfetto. Allora ti aspettiamo qui ancora, Giovanni. Grazie. Allora, adesso ci ascoltiamo qualcosa dal vivo, poi torniamo in studio e ci ascoltiamo ancora dal disco e poi ci salutiamo. Cosa avete pensato di farci ascoltare adesso? Guarda, penso che, siccome capita spesso che io mi trovi anche da sola, come diceva anche Maurizio, sì, come Johnny Mitchell, chiaramente. Esatto, chitarra e voce. Chitarra e voce. Allora farò un brano solo chitarra e voce. Anche questa è una storiella simpatica di un treno piccolino che, partendo dalla stazione di Milano, a un certo punto decide di cambiare traiettoria e di fare un viaggio un po' diverso dal solito. E si intitola? Galassia Express. Fermo alla stazione di Milano, il treno sbuffa un po' di fumo che sale fra l'acciaio dall'ultimo binario. Chiama raccolta occhi e nasi e scarpe di vernice che, scivolando tra i vagoni, osservano chi resta sul marciapiede a guardare in su. Via si muove sulla ferrovia col muso dritto contro vento, respira lento l'odore buono dell'utopia. Via fino alla prossima stazione, chiamando tutte le persone col loro nome. Queste salutano e saltan su. Ecco che poi si stacca dai binari e punta dritto verso il sole dai finestrini, le bocche aperte guardano giù. Danza, la lunga danza dei pianeti, fermando tutti gli orologi, raccoglie i sogni in un cestino di stoffa blu. Tururut. Terra lontana e bella da guardare, è biglia azzurra che scintilla di mari grandi, di luci elettriche di laggiù. Ecco che quasi quasi si commuove, le stelle guardano sorprese, qualcuna ride, per questo brilla un poco di più. E non c'è nord, e non c'è sud, e non c'è oriente, non occidente, e non c'è giorno che non finisca, e nessuna notte dura per sempre, e non c'è posto dove nasconderti. Ascolta e guarda, e non dire niente. Ascolta e guarda, e non dire niente. Tempo dell'infinito ripartire, fissare dritto l'orizzonte che si avvicina mentre le nuvole vanno via. Tempo cullato e lento del tornare, poi tutti scendono dal vagone, lui si riposa su un tratto morto di ferrovia. E non c'è nord, e non c'è sud, e non c'è oriente, non occidente, e non c'è giorno che non finisca, e nessuna notte dura per sempre, e non c'è posto dove nasconderti. Ascolta e guarda, e non dire niente. Ascolta e guarda, e non dire niente. Non c'è niente da fare, Erika. Bravo, brava, veramente. Brava, bravissima. Tu Spesso... sei dolcissima, veramente. Giovanna diceva prima una cosa. Questi sono racconti e praticamente momenti ritratti, e voce e chitarra da sola hai praticamente tenuto sulla sedia tutti quanti qua compresi. I due musicisti ti conosco, ma io questo pezzo non lo conoscevo, e Agostino lo stesso. E questa è una capacità di suonare da sola davanti agli altri. E non è mica semplice, sai? È difficile, secondo me. Cosa dici, Giovanni? Ma io volevo dire una cosa che Erika non sa, che ogni tanto io e Riccardo Sartorel, che è il bassista del nostro gruppo, che saluto, sono dei brani di Erika che li suoniamo e ci guardiamo e diciamo, beh, cioè, va un po' oltre questa cosa di suonare per Erika, che proprio ci piacciono certi pezzi. Tipo Comignoli e Ricchi, ogni volta ci guardiamo. Anche stavolta abbiamo avuto un brivido, si dice. C'è niente da fare, lei è così. Guarda, io è da tanto che non faccio questa domanda, ma te la voglio fare perché la tua dolcezza è veramente tanta. Ma chi è Erika Boschiero? A saperlo. Erika Boschiero è tante cose insieme, e molte ancora le devo scoprire pure io. E le scoprirai solo cantando, giusto? Ma non solo. Dai, per fortuna, sai, faccio anche tante altre cose. Poi certo. Comunque credo che, ma se devo dire qualcosa, giusto perché radiofonicamente parlando forse la risposta che ti ho dato era un po' vaga. Mm-hmm. Il fatto di essere nata sulle montagne, con la famiglia che ho, che è preziosa, abbia influenzato moltissimo su quello che faccio e quello che sono, e anche le persone che ho incontrato e che continuo a incontrare lo fanno, per cui insomma cerco di mantenermi aperta a questi incontri. Mm-hmm. Perché sono sempre molto utili anche per conoscere noi stessi, insomma. Sembra una frase fatta, ma in realtà è proprio così, sì. Sei un po' signora dei venti? No, signora dei venti è mia mamma. Ah, ascoltiamo la mamma? Sì. Thank you. la costa cammina sulla linea dei giorni, sfoglia petali di rosa dei venti, cantando la sua storia senza parlare, la racconta ai pesci del mare. I suoi occhi sorridono e rubano scene al mercato, parole e rumori e la gente che grida e nasconde segreti. Finché il mare lo cura e piano lo inghiotte, non resta più nulla. E tu vai o resti, signora dei venti, tua figlia è da sola coi gabbiani del porto e osserva i tuoi passi lungo la strada, disegni di polvere dovunque vada. La rosa dei venti è uno stelo sull'acqua, i petali sono un ricordo nell'aria, le spine rimangono a ferire la pelle di un mondo che aspetta le cose. Mai la mamma è una signora dei venti? Ma no, guarda, in realtà dico mia mamma, ma in realtà è come dire la rappresentazione di qualsiasi rapporto fra madre e figlia. È una madre che c'è, perché poi mia mamma c'è sempre stata e c'è sempre stata molto, ma che a un certo punto deve lasciare andare, no? la figlia, e quindi a un certo punto è fuggita, ma insomma penso che sia, dico quello, ma perché tutte le figlie a un certo punto in qualche modo scappano di casa. Io non l'ho mai fatto realmente, però è un po' la crescita, no? Il processo di crescita, che il giro della vita, sì, che in qualche modo dobbiamo affrontare tutti, per forza. Erika, sì. Citiamo questo bel progetto Ballate di China. Sì, Ballate di China è uno spettacolo che abbiamo costruito con Paolo Cossi, che è un fumettista molto molto bravo, e niente, mettiamo insieme le mie canzoni e i suoi disegni. Lui disegna in diretta le canzoni che io canto. Ah, bellissimo. E quindi, sì, ma tra l'altro sta avendo un grande successo. Se qualcuno di voi vuole vederci, ci può trovare lunedì 23 al Festival Internazionale di Circo Contemporaneo Brocante, che si trova a Frisanco, quindi nella zona dell'Alto Friuli, sopra Pordenone. Quello, ma poi www.ericaboschiero.it trovate tutte le prossime date anche di Ballate di China. Stai facendo tutto tu, hai visto? Che brava. Puoi fare la DJ. Ti volevo chiedere appunto, per qualcuno se volesse contattarti, appunto i tuoi dati, insomma, per far sì che questo avvenga, insomma. Sì, poi anche la mia mail, se volete, erica@boschiero.it. mi raccomando, scrivete Erika con la C, perché se mi scrivete con la K non funziona. No. Che fanno spesso, perché c'è chi si chiama con la K, chi invece con la C, Erika. Lo so, per quello lo dico. Allora, prossimi concerti? Appunto, questo del 23, poi ne abbiamo uno il 21 sempre con Paolo, ma è privato per la clinica degli ospiti appunto della clinica per asmatici a Misurina, la clinica pediatrica, e quindi quello non è aperto al pubblico. Ma di aperti al pubblico poi c'è un duetto con Leo Miglioranza il 28 di luglio a Sala di Strana, e un concerto con Leo e Alberto in apertura a Gino Paoli il 6 di agosto, e poi con i ragazzi, quindi con Enrico, Giovanni, ma anche Giacomo al pianoforte e Riccardo al basso, saremo il 18 di luglio a Pieve di Cadore, quindi dalle mie parti, dove sono nata io. 18 di agosto. Ho detto luglio? Sì, ecco, esatto. Bene, siamo alla frutta, ragazzi. E allora? E qui sì, la giornata si fa sentire. No, il 18 agosto siamo a Pieve di Cadore, al Caffè Tiziano. Quindi se volete vedere le facce di questi due bei giovani che hanno parlato questa sera, le potrete vedere il 18 ma agosto. Ma li vedranno anche nel nostro sito, perché metteremo le foto. Ah, ecco, benissimo. Quindi... ma dal vivo sono meglio, vi assicuro. Sì. Erika, siamo arrivati alla fine, è arrivato Alberto che adesso farà ascoltare la sua musica rock e soprattutto la sua classifica, quindi un'altra grande trasmissione assolutamente da non perdere, giovedì è così. Noi ti ringraziamo veramente di cuore di averci portato la tua musica, la tua persona, assieme ai tuoi musicisti. Grazie a voi di cuore. Grazie di aver accettato questo invito, la promessa l'hai già fatta tu, io non c'entro, quindi tu sarai qui prossimamente, vero Erika? Sì, veniamo presto. Col prossimo disco. No, io sto scherzando, però se ti fa piacere veramente... No, è assolutamente... Insomma, non è per, come dire, sviolinare la situazione, ma è difficile trovare trasmissioni che diano una diretta di un'ora e mezza con tutti i brani così lasciati passare anche fino alla fine. Insomma, è raro e prezioso, quindi vi teniamo stretti. Grazie di cuore, Erika. Noi ci sentiamo giovedì della settimana prossima con una musica... totalmente diversa. Sì, totalmente diversa, esattamente. Andiamo su rock anche rock sinfonico. Con Teodosia è un'altra cosa. Teodosia. Sempre qui a Blu Radio Veneto. Okay. Erika, ci saluti con una canzone che hai cantato con Elsa Martin qualche tempo fa, che parlavamo prima, che è una canzone che avete scritto per i terremotati dell'Abruzzo, giusto? Sì, l'ho scritta dopo il terremoto dell'Abruzzo e in qualche modo, insomma, parla di questo. Visto che siamo anche in tema. Purtroppo. Sì, appunto, perché poi sono eventi che ahimè si ripetono, e quindi insomma, così siamo vicini a tutti quelli che hanno vissuto queste cose. Grazie Enrico Pagnin. Grazie a voi. Grazie. Buona continuazione, perché è veramente una bella trasmissione. È raro, come diceva Erika, trovare questi spazi in radio. Grazie Enrico. E grazie anche a Giovanni Anatoli. Grazie a voi, uno dei miei migliori compleanni. E allora facci gli auguri anche da parte nostra alla Franca. Grazie mille. E grazie a te Erika, ovviamente. Un abbraccio. Alla prossima. E ciao. Alla prossima. Ciao. Io dalla mia finestra mi perdo nella sera e vago con lo sguardo sopra i tetti di muschio e coppi vecchi. Quant'è la tenerezza per un ciliegio in fiore che stanotte porta della luna il medesimo colore. Cresce la luna e il vento insieme a lei. Richiudo la finestra ed ogni angolo di questa vecchia camera sussurra che ci sei. Una preghiera al cielo, una sulla tua foto e piano mi addormento come allora. Dalle grotte poi scende sottoterra e là solleva un brivido di freddo in un attimo che è eterno. E il sopra, adesso il sotto e non ho idea se fuori o dentro il male che ora sento poco a poco è più sottile ed io ti vedo accanto a me. A quello che era un letto guardo su, la luna così immobile, il ciliegio che è rimasto intatto e osserva il mio raggiungerti lassù.